Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Come già annunciato poco fa, sono nell'immenso, non so come chiamarlo, un capannone coperto, ma in realtà è un posto fighissimo, fatto da qualche archistar della Milano Fiera City, dove c'è il Forum degli Agenti. Che è il Forum degli Agenti? L'ho scoperto questa mattina. È un posto, ci sono le persone che vendono degli oggetti di qualunque tipo, ognuno ha il suo piccolo stand, stanno lì, chi con dello scotch, del nastro adesivo, una pompa per aspirare l'olio dalle coppe delle macchine, c'è di tutto. Insomma, ci sono le persone che pazientemente, con arte, perizia e mestiere, queste cose poi le vendono, perché è inutile fabbricarle, metterle sul mercato, se poi non c'è qualcuno che convince le persone che vadano comprate. Ma siccome non mi fidavo del fatto che sia poi difficile, un mestiere importante, saper vendere le cose, lanciato la sfida qualche settimana fa agli agenti, gli agenti.it probabilmente, cioè quelli italiani, dico: ma voi riuscite a vendere delle cose che nessuno vorrebbe, nemmeno a regalo, cioè figuriamoci, è il nostro mestiere. Allora ho chiesto al pubblico della radio, lo ricordate, in un'epica trasmissione passata, elencatemi gli oggetti che avete per casa che vi fa perfino schifo prendere in mano per buttarli nel cassonetto, quelli che non vorreste mai vedere nemmeno, però ce li avete, un po' per nostalgia, un po' per scaramanzia. Ci sono delle cose che uno non butta via perché dice: magari mi porta male, perché me l'ha data la moglie, la nonna, la zia, il bisnonno, un amante perduto. Dice: me le tengo a casa, chissà. È come se uno dovesse sopportare questo fioretto quotidiano, tenersi qualcosa di inguardabile dentro casa. E devo dire che di oggetti inguardabili, indecifrabili, infami, di un orrore che è talmente orribile che supera quella soglia dell'orrore, entra in una sorta di limbo delle cose che occorre guardare, un po' l'effetto del gatto spiaccicato che più volte ho citato. Voi vedete che spesso lungo la strada si vede un gatto spiaccicato a gambe aperte, con le budella di fuori, brutto, orribile, fa talmente schifo che non potete fare a meno di guardarlo, e lo seguite con l'occhio nello specchietto retrovisore finché non vi scompara l'orizzonte. Quel gatto spiaccicato vi dà l'idea che l'orrore arriva a dei livelli che diventa sublime. E devo dire che in queste settimane ho avuto di tutto. Nel sito di Radio 24 avete elencati gli oggetti inguardabili, indecifrabili e infami che erano nascosti in dei luoghi invisibili nelle case italiane. Noi abbiamo riportati alla luce, abbiamo dato a loro gloria, abbiamo eletto tra i nostri ascoltatori un gruppo di persone che hanno fornito l'orrore più orribile di ogni nostra immaginazione. E ora quegli oggetti orribili in parte sono qui davanti a me, nel palco degli agenti di commercio, con agenti di commercio che si misureranno nell'ardua impresa di venderli, di dare un valore a ciò che sembra lontano da ogni scala di valore possibile. Tra qualche istante, a questo microfono, assisterete a un miracolo, a qualcosa di assolutamente nuovo, mai accaduto nel mondo degli agenti di commercio. Dovranno vendere quello che nessuno vorrebbe nemmeno per regalo. Tra qualche istante, 800 24 00 24 è il numero per chiamarci e dare ulteriormente il vostro contributo a questa fiera degli orrori. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Come ferocemente annunciato pochi istanti fa, ci troviamo al Forum Agenti nel Milano Fiera City, di fronte a un folto pubblico che pende le nostre labbra, per dimostrare l'impossibile, per cercare di capire quanto un agente di commercio si trovi di fronte all'arduo compito di convincere qualcuno che in realtà l'oggetto, la merce che lui porta con sé come prezioso orpello alla sua professione, sia indispensabile alla persona che dovrebbe acquistarla. Inizio questa mattina, per non perdere tempo inutile, con la proclamazione del primo vincitore. Poi non vince nulla, vincerà una triste bustina con i gadget di Radio 24, che sono fantastici, bellissimi e cambieranno la sua vita, perché sotto Natale avrà finalmente qualcosa da mettere sotto l'albero di consistente. Però in questo momento sicuramente avrà valso la pena venire in questa giornata piovosa a Fiera Milano City. al nostro ascoltatore Roberto Zani. Roberto Zani, buongiorno. Buongiorno a lei. Roberto Zani è un signore che rappresenta veramente il target ideale della mia radio, vestito da Umarell con una grisaglia grigia e una cravatta regimental rossa e blu. È perfetto, ha messo il vestito buono oggi per venire, sì, esatto. Chiaramente. Non è quello con cui sei sposato. No. Assolutamente no. Ha portato qualcosa che, devo dire, che è un coronamento della sua... Lei è sposato? Sì, sono sposato. Allora, l'oggetto che ha portato il signor Zani, lo trovate nella nostra rassegna del sito di radio24.it, è qualcosa che ho già descrissi alla radio, che mi colpì in maniera profonda. Lo stringo tra le mani, in questo momento Elena Ligios del nostro marketing mi fa una foto, poi la metterà su Twitter così lo vedrete. Prova a descriverlo per sommi capi. Innanzitutto è placcato d'oro, potrebbe sembrare una pepita d'oro o una montagna di cacca di mucca d'oro vista da lontano, perché è informe, ma man mano che si zoom si vede la forma. Cosa rappresenta questo oggetto? Rappresenta una tartaruga grande con un'altra tartarughina sopra. Potrebbe essere una giovane tartaruga che si ingroppa una milf tartaruga. Potrebbe essere una mamma tartaruga in una versione più accettabile, infatti ha una cuffiettina in testa, con il suo tartarughino sulla schiena. Se si solleva, diciamo, il coperchio, si apre e ci si accorge che è una meravigliosa scatola in cui può essere messo di tutto. Dentro la tartaruga possono starci caramelle, possono starci cotton fioc usati, possono starci caccole, possono starci qualunque cosa si voglia nascondere dentro questo. Sentite anche il rumore, dimostra anche la pregiatezza del materiale in cui è stata fatta. Allora lei, signor Zani, come è entrata in casa sua questo oggetto? Questo oggetto è entrato in casa mia 15 anni fa, a Natale. La nostra domestica di Kiev è arrivata con questo pacchetto, l'abbiamo aperto tutti. Siamo lei aveva rimasti... una donna ucraina in casa? Sì, esatto, sì. Che uso ne faceva? La domestica. Domestico, un uso domestico. Uso domestico, sì. E perché l'ha voluta gratificare con questo dono, la sua perché signora di aiuto? Perché probabilmente era molto affezionata alla nostra famiglia e voleva dimostrare la sua benevolenza nei nostri confronti. Ma c'è un sottinteso simbolico secondo Io lei? Io penso di no, però... Delle due versioni, è la tartaruga che si ingroppa l'altra o è una mamma col tartarughino sopra? Ma io penso che chi l'ha fatto non ha pensato a niente, l'ha fatto e basta. Sì, è bello pensare che sia, secondo me, una piccola tartarughina che cerca di fare la festa però sotto. Fa la festa alla sua mamma. Sì, c'è una protuberanzina dietro che sì, potrebbe sembrare... Sì, in realtà la coda, quella protuberanza. La coda, quella cosina. Sì. Ora, io questo oggetto, dietro il quale non credo ci sia un pensiero, ma l'ispirazione artistica ha raccolto... l'artigiano di Kiev che l'avrà immaginato in un momento di fulminazione, avrà visto una sorta di Madonna Nera, qualche divinità locale, e ha detto: ah, devo fare questa tartaruga. Io pongo questo meraviglioso oggetto di artigianato ucraino nelle mani di Paolo Bosi. Paolo Bosi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Lei è un agente di commercio? Sei un agente di commercio? Sì, sì. Ma cosa vendi normalmente? Software per agenti di commercio. Quindi non c'entra una mazza la tartaruga? Assolutamente no. Ecco, io guarda, te la metto davanti. Guarda, perfetto. Secondo te questo oggetto fa schifo, adesso onestamente. Partiamo dal presupposto. Fa schifo, è opinabile la cosa. A qualcuno potrebbe piacere? A qualcuno potrebbe piacere, ad esempio alla domestica di Kiev è piaciuto. Evidentemente per regalarlo, insomma. Sono universi che... si lambiscono soltanto per questa sorta di cosmico cambiamento che sta avendo il mondo. Mai una signora di Kiev dovrebbe entrare nella casa di un Umarell. Lei dove abita? Brescia. Di un Umarell bresciano. Anzi, si creano poi delle collisioni pericolosissime, lo sai cosa accade? Esatto, infatti vengono fuori due tartarughe. Ecco, due tartarughe. Questo oggetto secondo te avrebbe un mercato? Avrebbe un mercato, avrebbe un grandissimo mercato, perché poi a livello simbolico... Attento che si rompe, perché è fatto di coccio schifoso, guarda, vedi, sai, porcellana... Sì, è porcellana, è finissima come porcellana, infatti vedo che è molto delicato come tipo di oggetto. Fa rumore dei vitali di, quando si chiudono quelli degli ospedali, terribili, che porta alle monache, senti, l'odore proprio... Sì, però... Così facendo tu trasmetti un'immagine, diciamo, alle persone che ci stanno ascoltando che... E io devo distruggere, devo farti il lavoro difficile. Me la stai distruggendo. Perché comunque la tartaruga, adesso a prescindere da come è fatto questo tipo di tartaruga e come è fatta, poi se la porcellana è buona o meno, cioè la tartaruga comunque rappresenta a livello simbolico la creazione, la fertilità, la costanza, la saggezza, la pazienza. È un atto esatto. Simbolico di congiunzione fra due tartarughe. Ma assolutamente sì, infatti come possiamo vedere la tartaruga sotto, che è molto grande, attende pazientemente la crescita di quella sopra, per l'ingroppata. Sì, ma noti che cuffietta orribile che ha la tartaruga grande. Ha una cuffiettina da, non so, sembrano quasi quelle cuffiette da notte della nonna di Cappuccetto Rosso quando se la mangia il lupo. Sì, perché praticamente questa tartaruga sicuramente viene dall'est del mondo, quindi viene, non so, dall'Indonesia piuttosto che dalla Cina. Cioè, e speriamo, quindi, se c'è scritto intanto la fabbricazione. Sicuramente è made in Cina. Niente, non c'è scritto niente. Non c'è scritto è talmente tarocca che non c'è manco la denominazione d'origine. Magari è scritto sotto, no? Allora, aumento la tua sfida. Tu ti occupi di software. Esatto. Ammesso che uno dei tuoi clienti che vende software ha detto: noi dobbiamo fare un packaging fantastico di un nuovo prodotto. Ti ricordi le prime connessioni? Era uno scatolone con scritto di tutto e dentro c'era un CD con il software per connettere. Esatto. Prende niente, però sembrava chissà che. Legato al software, questo oggetto tartaruga di coccio schifoso, cosa potrebbe contenere? Allora, una chiavetta USB infilata dietro nel sedere e ci si infila qualcosa? Non lo so, dimmi te. Allora, io dicessi, risolvimi questo problema. Secondo me, questo tipo di oggetto, prodotto in serie, potrebbe essere una genialata. E vi spiego il motivo. Allora, questo oggetto che praticamente potrebbe contenere appunto una penna USB, un mouse forse no, ma chi lo mette, però scusa? Una penna USB c'entra sicuramente. Certo, voglio anche. Allora, che cosa può contenere? Anche un hard disk ci potrebbe entrare. Sì, volendo. Esatto, tanto ormai le dimensioni insomma sono abbastanza ristrette. Questo qui, abbinandolo al software, potrebbe contenere i dati che poi vanno inseriti nel software. Quindi potrebbe essere una sorta di backup dei dati del software. Dal senso quindi di sicurezza. Potrebbe servire. Assolutamente sì, e spiego pure il motivo. Essendo l'oggetto, insomma, non molto bello, diciamo che nessuno ti frega i dati. Ma nessuno penserebbe di aprirlo nemmeno e di toccarlo, quindi abbiamo risolto il problema della sicurezza informatica. Assolutamente. Invece di fare grandi reti di protezione, metti i tuoi dati dentro sto schifo, ma chi te li tocca mai? Assolutamente sì, esatto. E quindi in questo modo viene risolto proprio il problema dei dati. Drammatizza anche il problema che fatto, diciamo, che gli hacker più quotati vengono tutti dai paesi dell'est. Questa è la risposta, diciamo. Guardate, chi fa sta roba ti può toccare i tuoi dati. La tua azienda è sicura se metti i tuoi dati dentro questo schifo. Assolutamente sì, esatto. Quindi, anzi, io lo propongo proprio di, adesso lo dirò, diciamo, al mio responsabile, di acquistare questo tipo di prodotto e darlo insieme al software. Invece che perdere tempo in sistemi di sicurezza. Assolutamente, questo firewall, è il sistema più sicuro in assoluto. Proprio. Metti i dati, il cuore della tua azienda dentro la tartaruga dorata. Esatto. E sta sicura. L'hacker russo, ucraino, che vuole entrare in maniera furtiva nel tuo software, nei piani della tua azienda, vede la tartaruga e dice: ma no, sto schifo, figurati se sta qua dentro, ma chi è così scemo? E così invece salvi. Esattamente. Lei che dice, signor Zani? È un'ottima idea, idea, quindi non mi libero certamente di questo prezioso oggetto. Certo, forse me lo terrò in casa in soggiorno, ma... No, ma lei vedi, fa un buchettino, lei che sicuramente farà il bricolage, avrà nel suo garage il Black & Decker, tutto. Se sono un suo ascoltatore. Lei deve fare un buchettino qua, facendo attenzione a non rompere la ceramica, proprio nel sedere della tartaruga, sotto la coda, così... Qua ci fa passare il cavetto, lei fa un lavorettino da un marel bellissimo. Qui dentro ci può mettere o un piccolo hard disk, anche un tera c'entra qua dentro. Esce il cavettino dietro, l'attacca al suo computer, dentro ci mette tutte le foto delle vacanze, le cose lì. Qui dentro una periferica fantastica per il suo computer. Io trovo che questa... Idea splendida. Allora, adesso andiamo però al punto più importante, non abbiamo teorizzato. Quanto possiamo far pagare questa roba qua, secondo te? Quanto possiamo far pagare questa cosa qui? Andrebbe prodotta in serie, quindi... Sì, esatto, cioè il prezzo non credo che sia elevatissimo. Però con una stampante 3D potremmo, diciamo, campionarla e farle magari con materiale, le facciamo in plastica che reggono, perché così si rompe, non ha senso. Però secondo me se lo facciamo in plastica poi perde la bruttezza, diciamo, dell'oggetto, quindi... Devi trovare una catena di produzione, un po' di cinesi che te la fanno, ecco. Sì, penso che se ne trovano. Figuriamoci. Insomma, poi se si rompe meglio così la ricomprano. Assolutamente. Anzi, si deve rompere. Come i telefonini, sto telefonino so che ha la vita di 2 anni, e dopo 2 anni devo cambiarlo, quindi si rompe ogni cosa, anche il mio laptop, comunque se io non cambio continuamente, non faccio gli aggiornamenti, alla fine non funziona più. Quindi quanto potremmo farlo pagare? Secondo me per la grandezza, per una quindicina di euro. 15 euro? Esatto, sì. C'è un ritorno di mercato, cioè se tu dovessi vendere assieme al software di protezione dell'azienda il porta software tartaruga, 15 euro sarebbe poco, quando potresti caricarlo? No, io 15 euro questo lo do compreso nel software. Tu metti che tu vendi Io vendo il software. Un software, quanto può costare un software protegge? Diciamo di una cifra. 300 euro. In più ti do la tartaruga, glielo metti 400 e ci metti la tartaruga. Ma la tartaruga è il plus, cioè io ti do la tartaruga, così ti faccio vedere proprio che il software è protetto. Cioè la tartaruga dà proprio come idea la protezione del software. Poi questo tipo di tartaruga è il top. Quindi diciamo, se tu scegli la soluzione Plus, oltre a tutta una serie di fancazzole che gliele dici, tanto per la stessa roba, gli dai anche la tartaruga. Esattamente. Aggiudicato. Allora, Signor Roberto Zani entrerà oggi in produzione per una software house che rappresenta il nostro Paolo Bosi. Questo fantastico hardware che contiene il software di protezione per l'azienda, che lo rende sicuro da ogni attacco anche dai paesi dell'est, con 100 euro in più avranno la soluzione Plus. Quindi la sua tartaruga ha avuto ragione di esistere, come ha avuto ragione di esistere la sua Colf Ucraina, il cui uso improprio non voglio naturalmente sapere in questa occasione. Ci sentiamo tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Stiamo riprendendo con grande attenzione la nostra dimostrazione che non esistono oggetti invendibili. Siamo riusciti a dare un valore di mercato reale a una terribile tartaruga in coccio dorato che viene da Kiev, e oggi supereremo ancora più in questa seconda parte della trasmissione ogni nostra più ardita aspettativa, perché oggi cercheremo di vendere l'oggetto impresentabile della nostra ascoltatrice Silvia Antelmo, che è qui accanto a me. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Questa schifezza come mai è entrata in casa tua, tanto per cominciare? È entrata perché era nell'uovo di Pasqua, era una sorpresa. Un uovo grande? No, è un uovo molto grande, era, l'aveva regalato qualche parente, non mi ricordo, ma le mie figlie non ci hanno mai giocato, è finito... E vorrei vedere, poverine. Ecco, è finito direttamente in solaio, e svuotando con mio fratello il solaio di mia mamma, che era pieno di cianfrusaglie, abbiamo trovato questo, volevo buttarlo. Vi lascio la sorpresa, voi fate, dite alla radio cos'è, sentite il rumore, provate a immaginare che è sto schifo. Allora, è un giochettino di plastica in cui c'è una gabbia con dentro l'uccello Titti, irraggiungibile a gatto Silvestro. Tirando la cordicella, gatto Silvestro di plastica, anche con un paracadute sulle spalle, dovrebbe salire fino a Titti. Ma il bello che, non, che è un uccello irraggiungibile praticamente. Sì, sì, sì. E beh, c'è un segnale dietro questo coso. Oh. In questo momento ho decapitato gatto Silvestro, partita la testa, raccogli la testa. È ancora più schifoso, gatto Silvestro senza testa che sale verso Titti. Questa è una sorpresa da uovo di Pasqua. Oggi non va più, rimetto la testa a gatto Silvestro, che non è rotta. Gatto Silvestro è decapitabile, questo è un plus, qualcosa in più. Questo oggetto che le tue figlie nemmeno hanno avuto il coraggio, no, non ci hanno mai giocato. No, mai. E qual è stato il destino di questo oggetto? Finire in solaio, appunto. L'ho trovato un mesetto fa e volevo buttarlo via, invece poi ho sentito che c'era questa occasione qui di Radio 24. Vorresti vedere se vale qualcosa. Vediamo. Anche perché non se ne sono visti altri, ovviamente l'unico prototipo l'ha messo nel tuo uovo di Pasqua. Forse. Allora io sottopongo questo oggetto all'agente di commercio Vito D'Urso. Vito D'Urso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Metto nelle tue mani Titti Gatto Silvestro. Tu di cosa ti occupi quando lavori seriamente per mantenere la famiglia? Io sono agente di commercio di Forum Agenti, di questa fiera. Quindi vendi questa fiera? Vendo questa fiera alle aziende che sono alla ricerca di agenti di commercio. Va bene, diciamo, è l'agente che vende gli agenti. Esattamente, alle aziende, sì. I tuoi colleghi sono la tua merce? I miei colleghi sono, sì, in qualche modo... Certo. Tu vendi i tuoi colleghi praticamente. Essendo agente mi rivolgo alle mandanti, quindi in qualche modo alle aziende che offrono opportunità di lavoro agli agenti di commercio. Se quello si è inventato agentidicommercio.it, quello lì si è inventato te? No. Ma è bella quella cosa. Molto, sì. Molto. No, diciamo è la pubblicità più divertente che c'è per Radio 24. Sì, sì, sì. Dopo quella per le emorroidi e per i pannoloni... È quella che più mi entusiasma. Allora, vediamo un po'. Bene. Questo è un oggettino che già, secondo me, in qualche maniera è coperto dal marchio della Warner, penso, che non so chi. Quindi è un po' difficile, già bisogna andare a negoziare. Sì. Ma immaginiamo che tu riesci a trovare per questo oggetto un tal mercato che poi saranno tutti contenti con la Warner, che hanno fatto questo disastroso esperimento di Titti col martello e Silvestro col paracadute. Secondo me il limite per cui non ci hanno giocato i bambini, che è complicato, perché è difficile, ci vuole forza per tirare e mandare sul gatto, poi il gatto non ci arriva mai a Titti, capito? Quindi non c'è il divertimento del gatto che si mangia l'uccellino, quindi il bambino dopo un po' dice ma che gusto c'è, e lo lascia. È una ricerca troppo nel particolare per dargli un valore. Che ci faresti te con sta roba? Chi lo riappiccicheresti? Ma Io personalmente intanto ricorda la mia infanzia, no? Perché comunque Gatto Silvestro e Titti sono un agente di commercio giovane, ma in qualche modo ricorda la mia infanzia, insomma. In qualche modo lo proporrei perché è un oggetto meccanico. Oggi nella nuova era del mondo digitale vediamo tanti bambini che sono orientati solo al touch. È sgradevole il rumore, lo dico, il rumore è sgradevole, senti. Ma a me personalmente piacerebbe averlo come un antistress. Ah, ti stai bandi sul... Assolutamente. Nel momento di poca serenità è un qualcosa di manuale, un gioco comunque manuale, per cui ha bisogno del movimento. Ti rendo più difficile la questione. Sì. Il vero problema dei cartoon della Warner era che noi sognavamo che Vil Coyote si inchiappettasse Bip Bip, sognavamo che il Gatto Silvestro si mangiasse Titti, che era uno stronzo allucinante, protetto dalla vecchia. Titti doveva morire. Non si dovrebbe fare una piccola modifica per cui alla fine il gatto ci arriva fino a Titti e se lo magna? E il motivo dell'acquisto sarebbe dire: finalmente il gatto che si mangia l'uccello. Dopo 50 anni che sta lì a corrigli dietro. Sì, in quel caso riuscirebbe nel suo intento, nel suo obiettivo che ormai dura da tanti anni, no? Quindi diciamo tu riusciresti a appiccicare a qualcuno questa roba qua? Sicuramente sì, sicuramente. Come oggetto antistress. Come oggetto antistress, come oggetto che per forza di cose ha bisogno di essere utilizzato con le mani, per cui sappiamo che i bambini sono curiosi. I bambini oggi hanno bisogno di esplorare, di toccare, di essere in movimento, per cui un oggetto di questo tipo è consigliabile per i bambini perché potrebbe essere un passatempo più che un gioco vero e proprio, insomma. Allora, oltre che, io devo capire se mi fate un segno. L'ascoltatrice Giulia, chi se la vende? Sempre lui? Allora, fermo lì. Allora, adesso abbiamo un'altra ascoltatrice al telefono. Intanto rimetto in mano della nostra ascoltatrice il suo uccellino e il suo gattino, e quindi tranquillamente soddisfatta. Soddisfattissima. Le sue bambine non ci hanno giocato, ma avrebbe davanti per un pubblico di adulti un'applicazione molto più importante. Lei soffre di stress? No. Vabbè, perché si è allenata. Infatti lo regalerò a chi soffre di stress. Conosce persone stressate? Sì, potrebbe essere. Ha persone stressate in famiglia? No, un amico a cui voglio regalarlo, ci ho già pensato. Il suo amante? No, vabbè, è il mio agente, Vito. Ah, il suo agente. Ah, vabbè, se l'è fatto per lui. Allora, Giulia Benforti, buongiorno. Come qua? Mi senti? Che tipo di oggetto avevi presentato tu? Ma io ne ho presentati un po', veramente. Allora, ho presentato una meravigliosa medaglietta commemorativa del questo. Io vedo una pipetta elefantiaca. Esatto. Che vuol dire? E lei è bellissima, è una pipetta del Rajasthan, presa da mio marito tantissimi anni fa. Lui è un agente di viaggio, dentro, quindi... Per fumarci dentro qualcosina? Tabacco, ma sì, tabacco, ovvio. Vi ci facevate, diciamo, qualche viaggetto in famiglia? No, non è mai stata usata in famiglia. E quindi, allora, insomma, una pipetta del... Ma sì. Perché andate, quando andate a fare questi viaggi con avventure nel mondo, poi vi comprate questi oggetti che a casa non sapete per dove buttarli? Per carità di Dio, mio marito è agente di viaggio, quindi avventure nel mondo proprio non se lo fila per niente. Non l'ho detto per dire qualcosa di squalificante per un viaggiatore, viaggi in gruppo. No, è terribile. Senti, non l'ha mai usata, quindi era lì nel cesto degli orrori, che è un cesto che ho in casa e raccoglie le schifezze improponibili. A lui piace tantissimo, però insomma, mettiamo che gli venga in mente di venderla. Vorrei sapere un elefantino. È rappresentato un elefante in questa. Esatto. Allora, vediamo un po' se sempre il nostro Vito D'Urso riesce a dare una collocazione. Allora, l'elefante pipa, devo dire che è già inquietante descriverlo. Abbiamo una foto dell'oggetto che l'ascoltatrice ha remotata al telefono. Sì, sicuramente è un oggetto per intenditori. Ah beh, sicuramente. E appassionati fumatori. Quindi ma cosa ci si fuma dentro, Giulia, dentro questa roba qua? Tabacco, ma volendo insomma anche qualcosa di più elaborato. In famiglia usate fare queste scelte elaborate? No. Mica c'è niente di male, mica no, è un reato. No, noi siamo più sul lato alcolici, ecco. Cioè, quando suo marito ha portato a casa la pipa con l'elefante, non c'era un sottinteso con questa pipa? Se ce la fumiamo insieme diventerò come un elefante. dalla proboscide smisurata, no. No, magari, non so. Questo... Non lo so. Ho trovato. Non ci avevo mai pensato. Diciamo che è un oggetto afrodisiaco. Potrebbe. Se vi fumate qualcosa qua dentro... Ma visto anche, le dimensioni, certo, potrebbe anche essere utilizzato per altri scopi. Dovremmo chiamarla pipa sventrapapere. Se ci mettiamo sotto questo nome, si capisce, non c'è bisogno. Lei capisce che assume un altro valore. Questo regaluccio che ha portato suo marito da un viaggio per farsi perdonare delle cose non raccontabili che ha fatto durante questo viaggio, in realtà aveva un profondo e sottinteso simbolico. Con questa pipa suo marito voleva rimettere insieme i frammenti ormai totalmente sparsi del vostro matrimonio in crisi. Quindi lei non ha colto questo messaggio e oggi lo coglie, e potremmo noi vendere questa pipa come l'oggetto che salverà il vostro matrimonio. Vi fumate insieme la pipa elefante e improvvisamente ciò che era distrutto avrà un labile e improbabile motivo di ritornare ancora in vita. Ci sentiamo tra un istante. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Capisco che questa è l'ora del soffritto, capisco che sarete lì a casa a tagliuzzare la cipolla, buttare la pasta dentro la pentola. Già si sentirà nell'aria il profumino del vostro triste austero desinare. Però la necessità di superare ogni barriera mi impone in questo momento di descrivere anche l'oggetto impresentabile della nostra ascoltatrice Francesca Andolfo. Buongiorno Francesca. Buongiorno Nicoletti. Prima di dire di cosa si tratti, dobbiamo dirlo con grande cautela e con grande delicatezza, perché è l'ora in cui le persone cominciano ad avvicinarsi al sacro desco familiare. Lei ci ha proposto questo oggetto invendibile come provocazione, perché voleva vedere se realmente saremmo stati in grado di prenderlo in considerazione, o realmente lei in casa ha questo oggetto che le hanno regalato, che non sa dove nasconderlo, non sa dove metterlo, perché mi rendo conto che è imbarazzante averlo per casa. Dove era celato questo oggetto? Prima ancora di dire di cosa si tratti. Mi piacerebbe dirle che la risposta esatta sarebbe la 1, ma purtroppo mi è stato veramente regalato l'anno scorso per Natale. E dopo un paio di giorni di contemplazione e sbigottimento è stato nascosto in garage dentro una borsa, perché veramente non sapevo cosa fare. Allora, adesso dobbiamo dirlo con la dovuta cautela. All'ascoltatrice Francesca Andolfo, qualcuno, il santo giorno di Natale, era impacchettato? Sì. Le regalò un pacchettino con gli alberelli di Natale, con gli angioletti, con le stelline, con un bel fiocco, e dentro c'era una cacca di plastica. Quelle cacche di plastica che si regalavano ai bambini da piccolo e fare gli scherzi. Ma mi dice chi è che gli ha regalato una cacca per Natale? Perché questo è interessante, il vero problema. Mio fratello. Suo fratello. Evidentemente Fra voi c'è un non detto che durava dal momento del concepimento. Suo fratello l'ha sempre invidiata, ha avuto gelosia per lei, e sotto l'albero le ha posto questa sorta di cacca di plastica per ricordarle il fatto che magari lei da piccolo gli tirava i capelli, gli faceva gli scherzi, cose del genere. In realtà no, abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Eh sì, bel rapporto, scusi. Io non vorrei rovinare la sua armonia, ma una persona regala sotto Natale una cacca a un altro, non c'è un bel rapporto, c'è un odio profondo, incelabile, che è uscito finalmente in superficie. Suo fratello la odia, potesse la ucciderebbe. Di questo stia tranquilla, a Natale non si rovina il Natale. Adesso è comunque piena di fiducia, affida a noi l'oggetto che le ha rivelato il rapporto conflittuale con suo fratello, e io lo affido nelle mani, simbolicamente, dell'agente di commercio Luigi Cervesato. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Lei ha un bel compito, vendere una cacca, diciamo che non è... Sì, non è molto facile. Però ha un suo mercato. Può avere un suo mercato sicuramente. Come ha detto l'ascoltatrice, è un regalo che generalmente si fa per fare degli scherzi. Ma io credo... O per sfregio. Chiaro, giustamente sfregio di famiglia. Hai già detto. Però credo che ci sia la possibilità di utilizzare questo oggetto anche come caccia mosche. Allora, tutti sappiamo che le mosche sono veramente fastidiose, si posano sul tipo, e la cacca attira le mosche. Perciò questo oggetto è sicuramente un oggetto che può eliminare le mosche quando si è a pranzo, a tavola, fuori, eccetera, eccetera. Ah, bella idea. E credo che questo sia... Cioè, uno la mette al centro di tavola, le mosche vanno sopra e le schiaccia mentre mangia. Potrebbe, se uno lo desidera, però messo nei punti strategici. Sì, ma passa la fame, quindi anche una dieta, diciamo. Questo dipende, però, come ripeto, siccome io devo cercare di vendere questo oggetto, devo cercare di dargli una sua valorizzazione, e credo che questa sia una delle possibili valorizzazioni facciamo una domanda per me. Scusi, Francesca, è inerte, diciamo, un oggetto inerte, diciamo, nella sua rappresentazione iconografica rappresenta l'oggetto innominabile, ma non ha delle caratteristiche, diciamo, organolettiche, olfattive, che poi ricordino anche l'oggetto. È un pezzo di plastica normale. Penso di sì, non l'ho aperto perché non avevo coraggio. È ancora sigillato. È ancora sigillato, sì, difatti dalla foto si vede che ancora... anche intriso con degli esteri, allora, bravissimo, aromatizzanti, allora, che danno quell'odore. Siccome tutti noi giornalmente espletiamo delle funzioni corporali, evidentemente uno potrebbe, per dare una maggiore attrazione alle mosche, potrebbe, diciamo, irrorarlo e porlo nelle posizioni. Mi sembra una cosa schifosa, è invendibile. D'altronde, questa... diciamo, ci mettiamo sopra del miele, le mosche vanno sopra e rimangono appiccicate. Ecco, fa già meno schifo. Fermo un attimo, andiamo. Vanessa, buongiorno. Gli ultimi minuti degli edico a Vanessa. Ascoltatrice Vanessa, mi ascolta? Buongiorno, sì, l'ascolto. Qual era il soggetto? Vediamo se riusciamo a chiudere in bellezza, a chiudere proprio. Vanessa, cosa ci aveva mandato? È una lampada invendibile, è una lampada nera, che non illumina niente, ha delle lucine rosse, con la faccia di un personaggio di Star Wars, credo sia, Darth Fener. Esatto. Darth Fener, sì. Allora, il capoccione Darth Fener, solo la testa tagliata, che si illumina un pochino, fa solo un po' un alone di luce rossa. Sì, penso che faccia solo paura a vederla, perché poi non illumina nient'altro. Questa da mettere però accanto al letto, al posto della abat-jour, è chiaro. Potrebbe essere, signora agente Cervesato, un coadiuvante per un bambino, per lo vedevo come solito, un coadiuvante, sempre teoricamente coadiuvante, sì, però, coniugale, sempre quello. Potrebbe anche essere, ma lei evitare... mai provato a accenderlo, tenerselo acceso vicino la sera? No, ma Vanessa, questa lampada è in vendita nel mio negozio, solo che non chiunque la vende. A quanto la mette in vendita? Importante la cifra. 24,90. È un po' caruccia, direi. Un po'. Qual è caruccia. Il giusto prezzo questa roba? Il giusto plastica. Prezzo potrebbe essere sui 12-13 euro. Allora, o per il regalo per il bambino, o per quello che dicevi tu, per dare un minimo. Scusi, oggi è il Black Friday, perché non lo vende oggi, ecco, approfittando, esatto, a prezzo dimezzato? Va bene? No. Ormai sono disposta anche a regalarla per chi la vuole. Ma non l'hanno voluta nemmeno per regalo? Nemmeno per regalo, no, la sento un po' titubante. Perché la volevo acquistare il mio collaboratore, lui era convintissimo che si sarebbe venduta, ma un pezzo e quanti, che la regalerò. Quanti pezzi ne ha acquistato? Solo uno. Vabbè, vedo che questa cosa le risveglia un dolore così profondo e così insanabile, visto che lei è una commerciante. Prenda questo oggetto, lo butti nel cassonetto, se ne faccia una ragione, e il collaboratore gli ricordi che la prossima volta l'avverta prima di comprare una schifezza del genere. Grazie agenti.it, grazie agenti di commercio, mi avete insegnato che non c'è nulla talmente orribile che non può trovare un cretino che se lo compri. Arrivederci.